Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, buon venerdì, sta cominciando il vostro fine settimana e noi ve lo faremo cominciare questa mattina mandandovelo di traverso, parlando di un tema un po' complicato, ma cercheremo di alleggerirlo perché è comunque un tema molto importante che riguarda molti risparmiatori italiani. Allora andiamo con ordine, con l'approvazione del maxi emendamento al decreto mille proroghe, scatta dal 1 luglio di quest'anno la riforma fiscale dei fondi comuni di investimento. Dal 1 luglio appunto il prelievo fiscale del 12,5% sulle plusvalenze, quindi sui guadagni dei fondi comuni italiani, passa dal cosiddetto maturato quotidiano al realizzato al momento del disinvestimento. Speriamo di non aver fatto spegnere la radio ai nostri ascoltatori. La riforma. Breaking news. Il 17 marzo sarà festa nazionale. Abbiamo interrotto Deborah Rosciani perché il Consiglio dei Ministri si è concluso proprio un istante fa ed è arrivata l'attesa decisione. Dopo tante polemiche, dopo tante discussioni, il governo ha deciso il 17 marzo sarà festa nazionale, quindi chiusi scuole e uffici. Anna, ti ringrazio, tanto noi saremo qua lo stesso, per cui per noi le cose cambiano poco, ci dovremo inventare anche sicuramente per quella giornata di festa un tema per Salva Danaio. Allora, vi reintroduco l'argomento di cui vorremmo parlare oggi, parleremo appunto della riforma fiscale dei fondi comuni di investimento, una riforma che è molto importante, che è attesa da molto tempo dagli operatori del settore, perché proprio questi attendono l'armonizzazione fiscale di questi prodotti di risparmio. Con il provvedimento l'Italia si allinea infatti agli altri paesi europei, anche in vista dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria UCITS 4. Qua lo so che sto usando dei termini complicati, ma è bene che cominciamo a prendere confidenza con questi argomenti. Questa direttiva comunitaria consentirà una maggiore concorrenza fra i gestori comunitari. Un altro aspetto importante della nuova tassazione è che il nuovo regime sarà più favorevole al sottoscrittore del fondo di investimento e questo potrebbe riportare molti risparmiatori sulla strada del risparmio gestito dopo il tracollo subito dal sistema fondi negli ultimi 5 anni, a beneficio dei fondi di diritto estero ma anche a beneficio di altri prodotti di risparmio distribuiti dal sistema bancario italiano. Allora, se volete capirne qualcosa di più questa mattina, come sempre potete chiamarci all'800 24 00 24, potete anche fare un'altra cosa, prendere domani Plus 24 del Sole 24 Ore, che pubblica un'analisi completa della riforma fiscale, dall'adempimento delle nuove regole per i risparmiatori all'impatto sul mercato del riordino appunto di cui vogliamo parlare questa mattina. Capopagina di questa inchiesta è Gianfranco Ursino di Plus 24. Gianfranco, ciao, buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti. Ti sei avventurato in un tema ben complesso, io ti devo fare veramente tutti i miei complimenti per aver fatto anche un po' di chiarezza sul giornale in questi giorni sul nuovo funzionamento del regime fiscale. Abbiamo però anche chiamato l'industria di settore perché vorremmo sentire anche loro che cosa ne pensano, se effettivamente sarà anche questo un modo per richiamare verso il fondo di investimento i risparmiatori. Allora io ringrazio per essere con noi, tra l'altro potrà stare con noi solo pochi minuti, Claudio Tosato, vice direttore generale di Prima SGR, responsabile divisione investimenti e prodotti. Dottor Tosato, buongiorno. Buongiorno. Sentiremo poi anche Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arca SGR. Dottor Binismaghi, buona giornata anche a lei. Buongiorno a tutti. E ci terrà compagnia per tutta la trasmissione anche una società di analisi finanziaria indipendente, Norisk, il presidente Carlo Mazzola. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io vi ho ricordato il numero verde per intervenire, ci potete anche scrivere al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, la nostra scheda per rifare con chiarezza, speriamo per i nostri ascoltatori, il punto della situazione. Auspicata da oltre un decennio, è finalmente arrivata la riforma del risparmio gestito, che equipara i fondi di diritto italiano a quelli esteri. A partire dal 1 luglio, infatti, si passerà dalla tassazione del maturato in capo ai fondi alla tassazione del realizzato in capo ai sottoscrittori, con un'aliquota del 12,5% solo al momento della liquidazione della quota del fondo. Di fatto agli investitori verranno presentate performance lorde anziché nette, con prezzi che non sono già scontati della tassazione del capital gain e quindi più attraenti. La norma, contenuta nel decreto mille proroghe, potrebbe dunque far tornare appeal sui prodotti italiani da anni in rosso e tra le peggiori categorie in Europa. Nel frattempo il comparto, dopo aver archiviato un 2010 tutto sommato positivo, con una raccolta di poco superiore al miliardo, ha iniziato il nuovo anno con il segno meno. A gennaio la raccolta netta è risultata negativa per 3,72 miliardi di euro, superando dunque il rosso di dicembre, pari a circa 3,2 miliardi. A salvarsi il mese scorso sono stati i prodotti azionari, bilanciati e flessibili, che hanno raccolto complessivamente oltre 1,2 miliardi di euro. Allora, io vedo già qualche ascoltatore che sta chiamando, sono anche abbastanza incuriosita di questo fatto, che sono interessati, ma è anche giusto al funzionamento appunto fiscale dei fondi comuni di investimento, quindi vorrei precisare che stamattina non parliamo di fondi, del loro rendimento e in relazione al mercato, parliamo dei rendimenti dei fondi in relazione anche poi alla gestione fiscale di questo rendimento, di questo guadagno che si fa sul fondo. Allora io chiedo scusa agli altri ospiti, ma devo sentire subito Claudio Tosato, perché poi tra un po' deve lasciarci, pertanto subito un commento con l'industria sulla riforma fiscale che sarà operativa a partire dal 1 luglio. Mancano ancora alcuni aspetti da definire, ma Tosato, l'industria auspicava da tempo questo cambio di regime fiscale. Quali sono secondo lei gli aspetti più vantaggiosi per il settore, per i gestori, per i risparmiatori? Beh, certamente si tratta di una riforma epocale che appunto si aspettava da molto tempo. E questa riforma, mi sentite bene? Se potesse evitare di usare il viva voce saremmo più felici, perché ho la sensazione, eccoci. Eccolo qua infatti, grazie. Eccoci. Dicevo, una riforma epocale che si stava aspettando da diversi anni e che a mio avviso può dare un impulso soprattutto per quanto riguarda tre aspetti. Innanzitutto dà la possibilità al Fondo Comune di Investimento Italiano di competere ad armi pari sul piano fiscale con i prodotti esteri che vengono importati in Italia. E questo sarà molto importante in particolare per le società di gestione che hanno molti accordi di collocamento e si trovano ogni giorno a competere con i rivali esteri. In secondo luogo dà la possibilità di esportare per la prima volta il prodotto italiano all'estero, cosa che fino ad oggi, fino all'introduzione di questa nuova riforma non è possibile. E questo è un aspetto interessante, tutto da valutare, che potrebbe dare un nuovo sbocco all'industria domestica. E infine, come giustamente ricordava lei, il 1 luglio entra anche in vigore la IUSIS 4, che prevede delle importanti novità a favore della concorrenza, dell'efficienza del sistema, tra cui per esempio le fusioni tra fondi domestici e fondi esteri e altri modelli che non sto qui a citare. E per accedere a tutte queste novità della IUSIS 4 è importante il livellamento fiscale, e quindi certamente ben venga questo tipo di riforma. Quindi bisogna arrivare a questo appuntamento con le carte fiscali in regola per essere realmente competitivi, Tosato, con tutti i gestori europei, se no vengono a mangiarci i risparmiatori. Sappiamo bene che alto tasso di risparmio c'è in Italia, quanto fa gola. Esattamente, perché noi siamo in una situazione abbastanza paradossale in questo momento, per cui noi abbiamo molta competizione, perché il sistema Italia è molto aperto, da parte dei player esteri, ma noi non possiamo competere in casa loro. Con la IUSIS 4 questa competizione aumenterà, e quindi a maggior ragione bisogna prepararsi e quantomeno utilizzare le stesse armi a disposizione dei nostri competitor d'oltralpe. Tosato, le faccio un'altra domanda, poi la lascio ai suoi impegni. Ogni tanto, periodicamente, anzi questo succede una volta all'anno, l'industria del risparmio gestito in Italia viene messa sotto i riflettori da un grande rapporto, quello di Mediobanca, che ancora accusa l'industria italiana di avere dei costi di gestione troppo alti. Questa riforma secondo lei comporterà dei costi aggiuntivi per l'industria che potrebbero trasferirsi anche sui risparmiatori? Io ho la sensazione che lei mi dirà di no, ma così insomma a spanne dovremmo preoccuparci di questo. A suo avviso l'industria farà in modo che questo non accada? Beh, sicuramente l'industria cercherà di accettare la sfida della IUSIS 4. La sfida della IUSIS 4 vuol dire competere anche sul piano dei costi. Sarebbe abbastanza assurdo che in questa fase, anziché andare verso un allineamento dei costi, una compressione dei costi, si vada ad aumentarli, quindi sarebbe, diciamo, come dire, controproducente. A nostro avviso si tratta di semplicemente implementare quello che già viene fatto per i fondi esteri. Molte SGR italiane, come per esempio la nostra, hanno anche una gamma estera che è già trattata dal punto di vista fiscale in questo modo. Si tratta di allineare anche i fondi domestici, quindi non vedo un grosso impatto da questo punto di vista. Tosato, io la ringrazio per essere stato con noi, intanto buona giornata e a presto. presto ad un'altra puntata, magari ci avvicineremo alla, come dire, alla scadenza del 1 luglio con la Iustis 4 e lo chiameremo anche per chiarirci un po' i termini di questa novità e il suo impatto sul mercato italiano. Gianfranco Ursino, intanto raccontaci un po' Plus 24 cosa sta preparando, anzi giornale chiuso ieri sera, per raccontare ai lettori questa novità. Volevo rispondere anche ad un ascoltatore perché dice: avete iniziato il programma con un tono di allarme, mi scuso, io purtroppo solo questo tono di voce, la mia preoccupazione è che fossimo un po' complicati per la grandissima platea delle persone che ci ascoltano, perché chiaramente non tutti hanno fondi di investimento in portafoglio e soprattutto quando parliamo di fisco in termini già generalissimi, per qualcuno la materia è assolutamente indigesta, figuriamoci questa, dobbiamo parlare di maturato, realizzato, disinvestimento, capital gain, quindi non è che sia esattamente semplice la materia, Gianfranco. Certo, in un certo qual senso può, viene un po' semplificata da un certo punto di vista, perché i fondi comuni che fino ad oggi avevano una tassazione peculiare si adeguano a questo punto a tutti gli altri tipi di strumenti, quindi anche azioni, obbligazioni, oltre che con i fondi esteri. Dall'altra parte si complica un po' dal punto di vista del risparmiatore, perché mentre fino ad oggi, no, per quanto riguarda l'investimento in un fondo comune italiano, non si doveva preoccupare di nulla, in quanto già la SGR dovendo tassare il 12,5%, dovendo prelevarlo già in capo al fondo, quindi al momento del disinvestimento il sottoscrittore non si doveva preoccupare di nulla. Certo, dal 1 luglio in poi, sempre che tutto vada in porto con il passaggio parlamentare, certo, che ancora deve essere tutto quanto varato anche alla Camera senza nessun tipo di modifica entro il 27 di febbraio, quindi dal 1 luglio cosa succederà? Succederà che ogni risparmiatore si dovrà preoccupare anche di gestire, come fa già oggi per le azioni e obbligazioni, anche tutto il discorso delle compensazioni tra plusvalenze e minusvalenze, tra i guadagni e le perdite che ha in portafoglio nel suo dossier titoli. E questo, come dire, è un po' di tutta la novità di cui parliamo questa mattina. Il passaggio è effettivamente più complicato perché c'è proprio uno spartiacque dal 30 giugno fino al 30 giugno la questione, ovviamente la questione fiscale del fondo viene gestita esattamente come adesso, dal 1 luglio invece c'è una come dire, c'è un regime nuovo, pertanto c'è proprio da fare chiarezza su questo spartiacque. Allora, da questo noi partiamo nella seconda parte del programma, prenderemo anche a spunto le vostre osservazioni. 800240024 è il numero verde per i vostri interventi. Anticipo già che ci sono molti ascoltatori che ci stanno dicendo: io ho questo tipo di prodotto di risparmio in portafoglio, anche questo viene come dire a subire, a dover gestire la nuova normativa fiscale. Adesso spiegheremo anche tutto questo tra pochissimo. È un ascoltatore al 349-238-6666, mi ruba il mestiere perché ci dice: Deborah, faccio un esempio di cosa succede. Io ho comprato un fondo 5 anni fa, 1000 euro per quota, mettiamo, ora vendo a 1200. Cosa pago di tasse? Cosa paga adesso? Cosa pagherebbe a partire dal 1 luglio di quest'anno, naturalmente? Io la ringrazio perché naturalmente era un esempio abbastanza simile a quello che avevo io da proporre appunto ai nostri ascoltatori. E allora, prima però, anche un'osservazione, se lo ritiene, con Simone Bini Smaghi, vice direttore generale di Arca SGR. Con lui vorrei fare un po' le stesse riflessioni che facevo prima con il suo collega di prima SGR Bini Smaghi. L'industria auspicava questo cambiamento, i vantaggi per i risparmiatori li abbiamo capiti, anche se adesso deve farsi un po' più attento, no, per la gestione della questione fiscale dei propri fondi di investimento, che prima era una questione demandata esclusivamente appunto alla SGR presso la quale aveva sottoscritto il fondo. È un vantaggio o meno per il risparmiatore? Ma io credo che sia una semplicità e una chiarezza. In precedenza il Fondo Comune Diritti Italiano era l'unico strumento finanziario comprato e venduto dal risparmiatore che aveva una fiscalità al suo interno, non era come gli altri strumenti finanziari. Oggi, col 1 luglio, se il decreto viene approvato, viene parificato a tutti gli altri strumenti finanziari che il risparmiatore può comprare e vendere. Direi che andiamo verso una semplicità, mentre prima era forse semplice perché era calcolata la fiscalità all'interno dello strumento, ma il confronto anche sull'andamento e su cosa fare con gli altri strumenti sulla fiscalità era più complesso. Tra l'altro, andiamo verso una semplificazione. Tra l'altro c'era anche un esempio grafico riportato proprio dal Sole nelle pagine di ieri e si evince che effettivamente anche non solo è più semplice il calcolo della tassazione con questa nuova modalità, ma alla fine anche il rendimento finale netto della nuova gestione del fondo appunto relativamente alla nuova gestione fiscale è un rendimento finale un po' più alto. Poi magari attraverso l'esempio che ci ha chiesto il nostro ascoltatore lo dimostreremo anche concretamente. Un'ultima riflessione con l'altro nostro ospite, Carlo Mazzola, un analista finanziario indipendente, quindi davvero una voce super partes rispetto a tutto questo. Dobbiamo decantare solo ed esclusivamente lodi del nuovo sistema, Mazzola, oppure insomma qualche difetto c'è? Ma quello che possiamo dire sicuramente è che il sistema va verso la semplicità e quindi io non vedo grossi difetti. Possiamo fare delle critiche se vogliamo al sistema dei fondi, ai costi, magari in alcuni casi per la trasparenza, ma questo sforzo verso un'equiparazione di trattamento fiscale, dove probabilmente ci saranno ancora dei piccoli accorgimenti da fare. Adesso noi stiamo ancora guardando e leggendo la bozza di riforma, bisognerà vedere se poi sarà risolto tutto, ci sarà ancora qualche piccolo accorgimento, ma sicuramente si va verso la semplicità. E mi aggancio al discorso che facevi prima, sicuramente il fatto di pagare le tasse soltanto quando si realizzano i guadagni e non prima renderà questi investimenti più efficienti, e quindi l'esempio è perfettamente giusto, sai, paghi le tasse sul guadagnato e non sul maturato, quindi benvenga questa riforma, primo passo verso veramente una semplificazione. Tra l'altro abbiamo appunto più volte detto che era effettivamente da un bel po' di tempo che l'industria cercava questa semplificazione, ora in qualche maniera resa anche obbligatoria dalla direttiva comunitaria che abbiamo citato più volte. C'è stato addirittura anche un tavolo che si è costituito presso la Banca d'Italia negli anni passati e che effettivamente ha lottato molto per arrivare a questo risultato, non ci è riuscito, ci siamo arrivati adesso, l'industria ci è arrivata adesso, dunque vedremo poi in che maniera funzionerà nella concretezza a partire dal 1 luglio, però qualche esempio lo possiamo già fare. Gianfranco, ti faccio partire già delle domande, così cerchiamo un po' di chiarire la questione agli ascoltatori che ancora qualche aspetto non ce l'hanno chiaro. Salvatore da Catania, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie di avermi. Grazie a lei. Io sono possessore di quote di un fondo Global Templeton Fund. Sì. Ed è di diritto SICAD, se non erro. È una SICAD. Si deve sapere se io rientro nella nuova normativa o faccio parte, diciamo, delle SICAD che non pagano praticamente subito le tasse sul rendimento. Sull'eventuale rendimento. Sì, ecco. Grazie, Salvatore. Poi, scusi, solo un'altra cosa. Eventuali minusvalenze vengono compensate fra fondi o altri titoli? Salvatore, questo è il grande tema di Gianfranco Ursino che mi ha fatto scoppiare il cervello ieri, devo dire la verità. Intanto Gianfranco, possiamo chiarire una volta per tutti i soggetti coinvolti nella nuova tassazione e i soggetti esclusi. Allora, volevo un attimo quindi partire dalla domanda, mi perdoni Deborah, del risparmiatore, quindi per quanto riguarda per quanto riguarda la SICAV, possiamo dire che non cambierà nulla, perché essendo un fondo di diritto estero era già tassato al momento del disinvestimento da parte dell'investitore, quindi per lui non cambierà nulla. Per quanto riguarda il discorso delle minusvalenze, per cercare di andare sempre sulla risposta, per dare una risposta all'ascoltatore, quindi non cambierà nulla, lo ribadiamo. E cosa succede? Che tutte le minusvalenze che genererà il suo investimento nella SICAV produrranno dei redditi diversi che possono essere poi in questo caso dall'ascoltatore, ma dal sottoscrittore di quella SICAV, utilizzate per compensare eventuali future plusvalenze che realizzerà però con altri investimenti, azioni, obbligazioni, che sempre nel momento in cui li vendo possono generare delle differenze di prezzo in positivo che generano redditi diversi. Questo fino cosa a questo succede? Momento non era così? No, è sempre così questo per quanto riguarda la SICAV. Adesso anche i fondi italiani vengono uniformati alla SICAV. E quindi qual è il passaggio in questo caso? Che nel momento in cui la SICAV del sottoscrittore oppure il fondo comune dal 1 luglio che il sottoscrittore venderà, succederà che genererà una plusvalenza, una plusvalenza che non potrà essere utilizzata per non potrà essere compensata con la minusvalenza che la stessa SICAV, lo stesso fondo mi produce. Posso compensarla con quella naturalmente di altri prodotti finanziari, e questo è un passaggio che deve essere bene chiaro a tutti, naturalmente. E l'altra cosa, prendendo un po' spunto dalla domanda del sottoscrittore di prima, che io ho fatto il mio investimento a 1000, oggi mi vale 1200, cosa cambia per me? Naturalmente ipotizziamo che questo 1200 sia il 1 luglio, anzi al 30 giugno, L'SGR, come dicevate voi sui giornali quest'oggi, a quella data fotograferanno la situazione, e fino a quel momento ci sarà appunto l'applicazione della tassazione sul maturato. Sarà già stata applicata, peraltro, è già al netto, quindi della tassazione, quindi il sottoscrittore non vedrà nulla, non comporterà nulla, non ci sarà nessun tipo di coinvolgimento. Da quella data in poi per il sottoscrittore partirà, possiamo un po' trattarlo in questo modo, un nuovo investimento, no? Dal punto di vista fiscale, quindi quel 1.200 sarà il suo valore di ingresso nel fondo. Da quel momento in poi, in base all'evoluzione della quota del suo investimento, cosa succederà? Potrà, il giorno in cui lo venderà, vale 1.300, genererà una plusvalenza rispetto a quei 1.200, e quindi su quella differenza tra 1.200 e 1.300, su quei 100, il sottoscrittore dovrà pagare il 12,5% momento del disinvestimento. Beh, insomma, ci sarà anche una bella un bell'impegno. Simone Binismaghi, vengo da lei appunto per i gestori e per i consulenti per spiegare tutta questa novità, che sarà sicuramente sì più semplice, ma forse non è esattamente semplice il meccanismo del funzionamento delle minusvalenze in rapporto alle plusvalenze, no? Binismaghi, lei che fa il gestore, per esempio, ecco l'ascoltatore che ha chiesto: ho comprato un fondo 5 anni fa, 1.000 per quota, ora vendo a 1.200, cosa pago di tasse? Lei come glielo spiegherebbe, pur ovviamente riconoscendo a Gianfranco che l'ha fatto benissimo? Ecco, io direi che come l'ha fatto Gianfranco Sino, meglio di così non si può spiegare. Il fatto è che in precedenza, quando riscattava, voglio dire, la sua quota, era già stata pagata la fiscalità in precedenza. Questa è la differenza, che oggi nei fondi di Totaliano si paga la fiscalità giorno dopo giorno, mentre da domani, come in tutti i paesi europei, si pagherà quando si venderà lo strumento finanziario che si è acquistato. Questo aspetto non è indifferente. Oggi è un'anomalia la modalità con la quale viene applicata la fiscalità nei fondi comuni di diritto italiano. È stato necessario questo cambiamento, Deborah, se no non avremmo potuto adeguarci alla nuova direttiva comunitaria, certo. E quindi era il primo punto di cui la associazione ha fatto richiesta quando si è dovuto iniziare a vedere come recepire la direttiva europea. Andiamo verso l'Europa anche con questi strumenti finanziari. Binismaghi, il fatto di applicare la tassazione sulle realizzate al momento del disinvestimento, a suo avviso, rispetto a quello che potevano fare in passato, porterà i sottoscrittori di fondi di investimento a valutare in maniera diversa il momento in cui disinvestire da un fondo? Chiaramente lo si fa generalmente in relazione a come il fondo ti rende, a come va, in relazione anche al momento di mercato. Oggi c'è questo nuovo tassello, sarà un elemento in più che porterà i sottoscrittori a fare una scelta piuttosto che un'altra, secondo lei? Penso proprio di sì. E quindi saranno anche aiutati in questo, come già oggi vengano aiutati da chi li assiste all'interno degli intermediari finanziari. E quindi quando hanno strumenti che hanno delle plusvalenze o delle poste con minusvalenze, sicuramente la gestione deve essere più attenta, ma come già avviene per tutti gli altri strumenti. Certo. Allora, Giovanni dalla provincia di Bari, le faccio fare la domanda e poi andiamo alla risposta dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Giovanni, benvenuto. Buongiorno a voi. Senta, io non sono da tanto in ascolto, però avevo ascoltato un po' la nuova riforma di cui si riparla. Chi ha sottoscritto negli anni addietro determinati prodotti gode di una fiscalità che al momento della sottoscrizione era in vigore o si adegua automaticamente alla nuova normativa? Dal 1 luglio si adegua, Gianfranco, alla nuova normativa. Per il resto, tutto ciò che c'era prima del 1 luglio alla fiscalità vecchia. Ecco, quindi c'è proprio uno spartiacque molto radicale, insomma, una spaccatura netta tra il sistema attuale e quello che sarà appunto in vigore a partire dal 1 luglio. Ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio, tra poco. Continuiamo con le domande dei nostri ascoltatori. Allora, Gesualdo dall'Aquila, buongiorno. Deborah, volevo chiederle una cosa: un fondo sottoscritto in epoca precedente, ante 30 giugno. Sì. Come tutti quelli che sono adesso in circolazione, insomma, tutti quelli che hanno le famiglie, perché non è che adesso tutti quanti entro il 30 giugno vanno a disinvestire, Gesualdo. Per la fiscalità, vale il prezzo il 30 giugno o il prezzo di acquisto? E poi volevo dire un'altra cosa: verrà trattato alla stessa stregua il credito fiscale di risparmio amministrato? Perché prima non era possibile compensare il risparmio gestito e amministrato. Potrà essere compensato eventuale credito d'imposta con risparmio amministrato? Sì, allora grazie Gesualdo. Allora, la sento per radio che sto in macchina. Sì, certo, grazie Gesualdo, buon viaggio. Naturalmente si mette l'auricolare, spero che l'abbia usato fino a questo momento. Vado da Simone Binismaghi un'altra volta, faccio fare il suo lavoro al dottor Binismaghi, appunto, che magari in questo periodo periodo con molti clienti, dovrà così fare un po' di consulenza in questo senso. Come comunicare ai clienti sarà fondamentale. Le due domande dei due radioascoltatori sono state importanti. Giustamente il secondo radioascoltatore ha capito che tutto riparte e si rifà una base di partenza con le quote al 30 di giugno, ovvero chi ha comprato anni addietro non deve fare niente, perché la fiscalità sarà stata assolta dal fondo comune fino al 30 giugno del 2011. Al 30 giugno ci sarà le quote di partenza sulla quale verrà calcolata la nuova fiscalità, ma sarà proprio a partire dalle quote del 30 di giugno. Tra l'altro avrete anche Binismag, immagino, adesso un bel po' di come dire, comunicazione informativa obbligatoria da fare. Credo, poi vedremo cosa succederà. Suggestioni naturalmente si metterà a lavorare insieme agli organismi di vigilanza e naturalmente al Ministero per fare passo dopo passo quanto è necessario, e sicuramente l'informativa ai clienti sarà molto importante. Non mi ricordo, ce la ricordiamo la seconda parte della domanda di Gesualdo? Risparmio amministrato e gestito, mi ricordo solo questo passaggio, Gianfranco. No, non ce lo ricordiamo, adesso lasciamo. C'è ancora Gesualdo? No, è caduto. Vabbè, adesso magari vediamo se riesco a recuperarlo per riprendere la seconda parte della trasmissione. Allora, c'era un'ascoltatrice che chiedeva, non l'abbiamo messa in diretta, ma la vedo che è tra le domande degli ascoltatori che ci hanno chiamato all'800 24 00 24, un ascoltatore, anzi Sergio, che ci racconta che ha sottoscritto un PAC per i nipotini. So che anche questo sarà oggetto, Gianfranco, di uno specchietto su Plus di domani. Sì, cosa cambia con la nuova normativa fiscale? Le telefonate che ho fatto anche agli uffici amministrativi delle varie SGR, proprio su questo punto, rimane un po' un nodo da sciogliere. È uno dei punti che anche le future fusioni tra fondi, come saranno trattati, no? Tutti i punti che si spera che da qui, naturalmente, all'entrata in vigore del 1 luglio, anche con i soliti regolamenti ministeriali di attuazione, no? Della normativa, vadano un po' a essere sciolti, no? Tecnicamente, certo. Perché effettivamente sui PAC bisogna stare molto attenti nell'applicazione di questo nuovo regime, però tutto si risolverà con noia in questo caso per gli uffici amministrativi delle varie SGR. Ma allora, abbiamo ripescato Gesualdo. Gesualdo, faccio ammenda, io solitamente prendo appunti sulle domande degli ascoltatori, stavolta ecco, mi sono persa la seconda parte, mi ricordo solo che ci aveva fatto un confronto fra risparmio amministrato e gestito. Quindi eventuali eventuali crediti di imposta possono essere compensati del risparmio gestito, possono essere gestiti e compensati con il risparmio amministrato, con plusvalenza del risparmio amministrato. Sì, Gesualdo, lo farei stare in linea comunque, perché è quello che, se ho ben capito, quindi eventuali plusvalenze che genereranno i fondi comuni dal 30 di giugno in poi, non se posso compensare con minusvalenze che ci sono di altro, sia titoli nel mio risparmio amministrato, in bot, piuttosto che azioni. Sì, Gesualdo? Sì. Ci conferma, abbiamo capito bene? Ipotesi, una minus, una plus in un'azione può essere compensata con una minus nel gestito. Del fondo? Perfetto, sì. Se naturalmente quella plusvalenza che genererà con le azioni, no? Sarà realizzata entro i 4 anni da cui ha naturalmente realizzato quella minus. I 4 anni di fiscalità. Sì, sì. Quindi, per quanto riguarda i fondi quindi comuni... Quindi cade la remora tra gestito e amministrato? Non esattamente, per quanto riguarda questo aspetto, per questo gli ho detto che volevo un attimo ripetergli la sua domanda, perché per quanto riguarda questo aspetto, riguarda i fondi, sì, no? Però naturalmente c'è il discorso del gestito, per esempio la GPF, no? Ecco, che la gestione patrimoniale, anche una gestione patrimoniale in fondi, no? Quella proprio che investe in fondi, no? Naturalmente non cambierà nulla. Quindi questo, diciamo, sento Binismaghi anche, ci aiuta a dirimere un po' questa matassa, Binismaghi, o è ancora tutto un oggetto di chiarimento? Deve essere ancora chiarito. È un po' prematuro arrivare a una conclusione se anche le gestioni patrimoniali rientrano nel riordino o no. Dobbiamo vedere veramente come è approvato il decreto definitivo, perché sul Sole ieri giustamente era indicato che rientravano dentro anche le gestioni patrimoniali, così come anche i fondi pensione, non dimentichiamo. Infatti. E quindi oggi forse è prematuro, quando è approvato il decreto definitivo leggeremo meglio, leggeremo se la riforma è a 360 gradi e se quindi questa separazione fra risparmio gestito e risparmio amministrato che è stata introdotta al momento dell'entrata in vigore della legge viene meno o se ovvero rimarrà ancora questo approccio del risparmio gestito per qualche strumento come le gestioni patrimoniali. Allora, Carlo Mazzola, l'analista indipendente, che cosa dice rispetto a tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, anche relativamente al fatto che insomma questa riforma fiscale auspicata dal sistema da tempo, intorno alla quale si stava lavorando da tempo, resa ora a questo punto imprescindibile dall'ingresso della direttiva europea UCITS 4 a partire da luglio, in qualche maniera modificherà l'atteggiamento del risparmiatore italiano verso lo strumento fondo di investimento? Guarda, onestamente, un pochettino sì, perché sarà anche più facile vendere questo prodotto, nel senso che sarà comparabile con gli altri, sarà più conveniente dal punto di vista della fiscalità, in quanto pagherai soltanto su eventuali guadagni. Le perplessità, il ragionamento, quello che è emerso nelle discussioni è, a un certo punto sembra che se tu guadagni con un fondo e perdi con un altro, perdite e guadagni non saranno compensabili. Aspettiamo a scrivere la parola fine, ma è questo quello che sta emergendo. Quindi, diciamo, un buon aiuto al settore, siamo sulla strada buona, bisognerà fare ancora qualcosa, perché comunque rimangono sempre un pochettino degli ibridi questi prodotti, nel senso che poi paghi le tasse ma non le puoi compensare, hai alcuni prodotti tassati al 12,5, hai degli altri fondi immobiliari magari tassati al 20. Mi sembra che ci sia comunque, pressati dall'Europa, fortunatamente entro il 1 luglio 2011, ci sia la spinta verso cercare di avere un'armonizzazione unica. La strada è lunga anche perché si parte con prodotti strutturalmente tutti molto diversi tra loro. Certo. Però guardiamo, diamo onestamente un giudizio positivo. Va bene, Gianfranco, sì, ci rimangono 30 secondi, sì, poi alla rubrica previdenziale. Sempre sul positivo, infatti per quanto riguarda il risparmiatore cambierà poco, secondo me. Per quanto riguarda invece il gestore cambierà tanto. Il gestore che fino ad oggi, no, naturalmente doveva gestire internamente queste questioni fiscali che ha comportato all'interno di alcuni prodotti di diritto italiano di accumulare, no, un credito d'imposta rispetto molto ampio. Allo Stato molto ampio che di fatto ingessava anche la gestione. E noi proprio su Plus 24 la graduatoria, no, di chi ha il credito, dei prodotti che risultano ancora oggi, perché ancora oggi vige questa tassazione, con il maggior credito d'imposta in pancia. Abbiamo le parole della previdenza adesso. INPS, per saperne di più. Le parole della previdenza in collaborazione con l'INPS, che oggi ci spiega i requisiti per la pensione di vecchiaia per l'anno. Almeno 40 anni di contributi versati a prescindere dall'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Per la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo, almeno 20 anni di contribuzione e il compimento dei 60 anni di età per le donne del settore privato e dei 65 anni per gli uomini. Per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, almeno 5 anni di contribuzione, il compimento dei 60 anni di età per le donne del settore privato e dei 65 anni per gli uomini. La trasmissione anche per oggi termina qui, grazie a tutti per essere stati con noi. So che per qualcuno è stata una trasmissione un po' complicata, per altri invece, come avete sentito anche dalle osservazioni dei nostri ascoltatori, sembra veramente di mangiare il pane quotidiano. E sì, allora GPF e fondi pensione sono fuori da questa riforma fiscale, abbiamo capito con Gianfranco Ursino, vedremo cosa succederà. Volevi segnalarmi un'altra cosa, Gianfranco? Per tutti quanti i dubbi. Sì. C'è il forum del Sole, è vero, il forum dei... Ci sarà la possibilità di mandare a Plus 24 tutti i dubbi possibili nelle prossime settimane, che abbiamo dei fiscalisti a disposizione che potrebbero dare tutte le risposte. Ottimo, insomma, quindi te la vedrai tu con i lettori e con i tuoi fiscalisti. Grazie a Claudio Tosato, che è già andato naturalmente, a Simone Binismaghi e a Carlo Mazzola per essere stati con noi. Torniamo lunedì, buon fine settimana.